Radio 24 Reportage. Noriel Rubini, Crisi, api e felicità, di Mattia Pelli. Parliamo della crisi economica con due economisti, l'influente Nouriel Roubini e Alan Kirman, che coltiva l'analogia tra uomini e api per cercare di capire lo sviluppo delle bolle speculative. Infine introdurremo il tema della felicità, più precisamente felicità interna lorda, la filosofia che guida lo sviluppo del Bhutan, piccolo paese himalayano di poco più di 600.000 anime. Ma prima di tutto una domanda: dove erano gli economisti quando tutto questo stava per succedere? Nouriel Roubini, uno degli economisti più quotati al mondo, c'era. La sua fama se l'è guadagnata in anni di lavoro presso istituzioni quali il Fondo Monetario Internazionale o come consulente alla Casa Bianca e presso il Dipartimento del Tesoro statunitense. Ma più ancora di questo, conta il fatto che Roubini è stato tra i pochi a prevedere fin dal 2006, in libri, articoli e conferenze, l'arrivo della crisi. D'eccezione al Festival dell'Economia di Trento, con lui abbiamo cercato di capire le origini dell'attuale recessione e i suoi sviluppi futuri. Ma prima di tutto un piccolo ripasso. Com'è nata questa crisi? Le crisi finanziarie derivano da un incremento delle politiche economiche, da vulnerabilità finanziarie ed errori. Nel caso degli Stati Uniti c'è stata un'eccessiva accumulazione di debito da parte delle famiglie e dei consumatori. Troppi mutui per comprare la casa che non potevano essere sostenuti, troppo credito al consumo, e in questo processo, dove le famiglie hanno aumentato i propri consumi e i debiti ipotecari, c'è stato un forte aumento del debito delle banche e di altri istituti finanziari. Questo boom del credito ha alimentato una bolla nel mercato dei beni come la casa. Abbiamo visto i prezzi salire sempre di più e la gente ha usato la propria casa come un bancomat, indebitandosi per ottenere del credito e spendendo più del proprio reddito. Tutto questo castello di carte è crollato quando i prezzi della casa hanno smesso di crescere e hanno iniziato a cadere perché c'erano troppe case a disposizione e non c'era più abbastanza domanda. E così la bolla è esplosa. E quando questo succede, la gente comincia a spendere meno e si finisce in un circolo vizioso, con i prezzi delle case e dei titoli in borsa che collassano, con la riduzione degli impieghi, della domanda, della produzione, che portano alla crisi economica e finanziaria. L'Europa è messa in pericolo da questa crisi e dai problemi dell'euro? Lei mi sta chiedendo dell'Europa, ma c'è l'Europa e c'è l'Eurozona. Direi che ci sono delle gravi sfide economiche per l'Europa e l'Eurozona. Anche prima che ci fosse lo shock della Grecia, la mia previsione, come quella di numerose istituzioni economiche, era che la crescita economica dell'Eurozona sarebbe stata inferiore all'1% del PIL. Visti gli shock avvenuti negli ultimi mesi, dalla Grecia ai mercati finanziari, dai credit spreads ai mercati azionari, la crescita dell'Eurozona quest'anno sarà zero, se non negativa. Nell'Eurozona c'è dunque il rischio di una recessione di intensità raddoppiata rispetto ad altre zone del mondo, e questo renderebbe tutto più difficile. Ci sarebbe la crescita della disoccupazione, l'aumento del deficit di bilancio, le ripercussioni sul libero mercato con grandi perdite per le banche e gli istituti finanziari. L'Eurozona deve dunque pensare seriamente a che cosa deve essere fatto per rilanciare la crescita economica. E una parte di questa reazione deve essere incentrata su politiche di austerità fiscale. Un paese come la Grecia non può avere un deficit del 13% del PIL. Questo non può che portare alla bancarotta. Ma se l'austerità fiscale è necessaria in Grecia, in Spagna, in Portogallo, in Italia, anche in Francia, bisogna però prevedere altre politiche che possano sostenere la crescita economica. Perché se non c'è crescita economica, ci sarà il ritorno alla recessione. E il supporto politico alle misure di austerità sarà vano e potrebbe esserci un disastro economico e finanziario. Dobbiamo pensare dunque all'austerità fiscale, ma anche a politiche economiche che possano riportare la crescita economica. Secondo me, politiche monetarie meno rigide da parte della Banca Europea, la diminuzione del valore dell'euro, più stimolo fiscale in Germania, maggior crescita nei salari e nella domanda interna in Germania, sono parte della risposta necessaria, in aggiunta all'austerità fiscale, in aggiunta alla ristrutturazione del debito pubblico di paesi come la Grecia, che hanno un debito insostenibile. Bisogna fare dei dolorosi cambiamenti economici, cambiamenti fiscali, ma bisogna anche ridare la speranza che c'è luce alla fine del tunnel. Ma se gli economisti non ci azzeccano con le previsioni, allora chissà che l'organizzazione sociale di api e formiche non possa venirci in aiuto nello spiegare i recenti crolli in borsa e la formazione delle bolle speculative. A dispetto della razionalità dei mercati, teorizzata dagli economisti neoclassici, per valutare le azioni degli attori economici è necessario introdurre concetti tutt'altro che razionali, come fiducia, reti di relazioni e contagio. È quello che ha fatto Alan Kierman, professore emerito di economia all'Università di Marseille 3 e all'École des Hautes Études en Sciences Sociales, studiando gli insetti per capire gli uomini. Il faut considérer l'économie comme un système. Bisogna considerare l'economia come un sistema di piccoli individui, ciascuno dei quali è influenzato da ciò che succede, ma gli individui hanno un'influenza sugli altri, e qui sta la differenza. Quando c'è un grande movimento a livello globale, non è perché un individuo ha deciso una certa cosa, ma è perché gli individui sono influenzati gli uni dagli altri. E dunque si vedono questi movimenti di massa che possono provocare una crisi, una bolla. Ed è questa nozione di contagio, di passaggio delle informazioni tra individui. Ma non c'è un super individuo che riflette. Gli individui sono limitati nelle loro capacità e svolgono il loro compito con alcune informazioni, ma non con tutte. L'informazione si diffonde tra di loro, ma non è mai perfetta e dunque è come tra gli insetti. Delle formiche o delle api che sono individui, che non hanno informazioni su quanto avviene a livello globale, non c'è nessuno che controlla il livello globale, ma tra di loro si organizzano spesso in modo molto efficace. Ma non è perché l'individuo ha una certa opinione o perché cambia opinione o ancora perché ha conoscenza di ciò che succede. Per esempio, una crisi può essere ingenerata dal fatto che delle banche cominciano a prestare a persone che sono sempre meno in grado di rimborsare. Ma questo diventa enorme. Non è perché ciascuno pensa alle conseguenze di questo a livello globale che allora ciascun banchiere comincia a essere più morbido nei suoi criteri e alla fine, con un piccolo cambiamento nella capacità della gente a rimborsare o una piccola diminuzione nel prezzo delle case, di colpo c'è la catastrofe. Ma non è perché a un certo momento qualcuno ha preso la decisione sbagliata o ha delle responsabilità. Voltaire ha detto: in una valanga non c'è nessun fiocco di neve che pensa di esserne il responsabile. È esattamente così. Questo sistema, proprio perché c'è questa interazione tra i piccoli individui o tra le banche o tra le imprese, può ingenerare questi grandi movimenti che non sono prevedibili guardando le azioni degli individui. Non c'è un responsabile o dei responsabili. È il sistema che evolve così. C'è il sistema che evolve così. Felicità, parola che stona in economia, ma non nel Bhutan, piccolo paese himalayano che vive della coltivazione di riso, frumento e mais, dove dagli anni 70 l'indicatore principale di sviluppo economico non è più il prodotto interno lordo, ma la felicità interna lorda. Perché in tempi di crisi come questi, sognare non costa nulla. Jigme Thinley è il primo ministro del Bhutan. Well, happiness... La felicità, o la felicità interna lorda, è stata la filosofia che ha guidato il processo di sviluppo del Bhutan ed è basata sulla convinzione che l'obiettivo dello sviluppo economico debba essere la promozione della felicità dei suoi cittadini. Penso che per troppo tempo i modelli di sviluppo economico si sono allontanati dall'obiettivo della vita umana e soltanto adesso il mondo sta diventando cosciente della necessità di riesaminare la natura dello sviluppo. La conclusione è che la vita che stiamo vivendo non è sostenibile. Questo modello economico che ha guidato lo sviluppo in tutto il mondo non porta alla felicità della gente e non è sostenibile. Così la filosofia della felicità interna, lorda, che ha guidato lo sviluppo del Bhutan, è vista come un paradigma alternativo di sviluppo che offre la possibilità di un processo di sviluppo olistico che tiene conto non solo dello sviluppo materiale ma anche di quello culturale, emotivo, psicologico e ecologico. Sono felice di dire che il Bhutan sia sfuggito largamente alla crisi economica. Credo che la gente del Bhutan sia ora abbastanza felice. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.